Il loro padre era uomo virtuoso e il tuo Signore volle che raggiungessero la loro età adulta e di seppellissero il loro tesoro. Segno questo della misericordia del tuo Signore. Io non l'ho fatto di mia iniziativa. Ecco quello che non hai potuto sopportare con pazienza. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. Ti interrogheranno a proposito del bicorne. Di, vi racconterò qualcosa sul suo conto. إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. In verità gli abbiamo dato ampi mezzi sulla terra e modo di riuscire in ogni impresa. فَأَتْبَعَ سَبَبًا. Egli seguì una via. حَتَّى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. Quando giunse all'estremo occidente, vide il sole che tramontava in una sorgente ribollente e nei pressi c'era un popolo. Dicemmo, o bicorne, puoi punirli oppure esercitare benevolenza nei loro confronti. قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا. Disse, puniremo chi avrà agito ingiustamente, e poi sarà ricondotto al suo Signore che gli infliggerà un terribile castigo. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. E chi crede e compie il bene avrà la migliore delle ricompense e gli daremo ordini facili. ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا. Seguì poi una via. حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا. E quando giunse dove sorge il sole, trovò che sorgeva su di un popolo cui non avevamo fornito alcunché per ripararsene. كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا. Così avvenne, e noi abbracciavamo nella nostra scienza tutto quello che era presso di lui. ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا. Seguì poi una via. حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا. Quando giunse alle due barriere, trovò tra di loro un popolo che quasi non comprendeva alcun linguaggio. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Dissero, o bicorne, in vero Gog e Magog portano grande disordine sulla terra. Ti pagheremo un tributo se erigerai una barriera tra noi e loro. قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا. Disse, ciò che il mio Signore mi ha concesso è assai migliore. Voi aiutatemi con energia e porrò una diga tra voi e loro. آتوني زبر الحديد حتى